Questo è un podcast di Rivista Militare. Il blues del lupo. Howling Wolf, stella della musica e soldato. Di Pierfrancesco Sampaolo. Chester Arthur Burnett, in arte Howling Wolf, fu uno dei più importanti musicisti e autori blues di tutti i tempi, fra i padri del blues elettrico e del rock psichedelico, ma per circa 3 anni fu anche un militare dello US Army durante la Seconda Guerra Mondiale, ma per lui fu tutt'altro che facile. Burnett nacque nel 1910 a White Station, nel Mississippi, da Gertrude Jones e Leon Doc Burnett, nel profondo sud degli Stati Uniti, in piena segregazione. Pare che il suo nome d'arte provenga dal fatto che la nonna fosse solita strizzargli le guance molto forte, tanto che lui emetteva dei veri e propri ululati di dolore. I genitori si separarono quando aveva 1 anno. Chester e la madre si trasferirono a Morrow County. Qui entrò, assieme a Gertrude, nel coro della chiesa battista Lifeboat e cominciò a muovere i primi passi nella musica. Ma improvvisamente la madre lo cacciò di casa per motivi tuttora sconosciuti e si trasferì dallo zio, dove però visse un periodo di privazioni e angherie, tanto che all'età dei 13 anni scappò per 85 miglia scalzo per raggiungere il padre. Finalmente qui cominciò a vivere una vita felice con la festosa famiglia allargata del genitore. Nel 1928, a quasi 18 anni, Chester guadagnò abbastanza soldi per comprare la sua prima chitarra, momento che ricorderà per tutta la vita. Amava il blues e la musica country di Jimmy Rogers, ma fino a quel momento aveva solo lavorato duramente e non era mai andato a scuola, come del resto quasi tutti i ragazzi afroamericani dell'epoca che vivevano nel sud. È però nel 1930 che la sua vita musicale si accese, quando incontrò Charlie Patton, il padre del Delta Blues. Patton si esibiva nei locali afroamericani del Delta del Mississippi, i cosiddetti juke joint, dove Chester lo andava ad ascoltare assiduamente. I due divennero amici e Patton insegnò a quel ragazzone talentuoso i segreti della chitarra blues, tecniche che lo accompagneranno per tutta la sua carriera. Ma Patton era anche uno straordinario performer, muovendosi come un ossesso sul palco, portando anche la chitarra dietro la schiena o fra le gambe. Insomma, sapeva come far incendiare la folla dei juke joint e Chester imparò da lui anche questo. I due cominciarono ad esibirsi insieme lungo il delta del Mississippi e così Burnett, che conosceva bene anche l'armonica a bocca, cominciò a collaborare con artisti dell'epoca come Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, Floyd Jones, da cui poi i Pink Floyd presero il nome, Sun House e Sonny Boy Williamson II. Ma nel 1941 alcuni proprietari terrieri del Delta lo denunciarono alle autorità federali per via del fatto che egli non era disposto a lavorare per loro nei campi. Così venne arruolato a forza nell'esercito degli Stati Uniti. C'è da dire che quelli erano anni molto duri per gli afroamericani, anni in cui segregazione e suprematismo bianco erano garantiti anche dalle leggi degli stati del sud e tutti gli artisti neri provenienti da quelle zone ebbero una vita molto più difficile dei loro colleghi caucasici, subendo spesso soprusi e ingiustizie. Tornando a Burnett, il suo arruolamento, benché forzato, non lo turbò più di tanto. Del resto era appena scoppiata la guerra e ce lo si poteva aspettare. Aveva già oltre 30 anni e l'adattamento alle regole militari non fu semplice. Il 9 aprile del 1941 fu assegnato alla base di Pine Bluff nel 9° Reggimento Cavalleria, uno dei reparti della nota Buffalo Division. Partecipò lo stesso anno anche alle manovre del Mississippi, dove vennero testate tecniche di combattimento con i mezzi corazzati utilizzate poi anche in Europa. Chester venne assegnato alle cucine e passò gran parte del servizio occupandosi di lavori umili. Ogni sera però, nella sala dove i militari attendevano visite e posta, cantava e suonava il blues, lasciando a bocca aperta chi era lì. Successivamente venne assegnato a Fort Gordon, in Florida, sempre al vettovagliamento. Stavolta erano gli scalini della mensa a vederlo esibirsi con la chitarra di fronte ai suoi commilitoni, Fra la malinconia di casa e della sua vita precedente, Wolf cantava come dalla sua veranda di campagna, da dove si vedevano passare i treni, andando al ritmo del rumore sulle rotaie, e che sembravano diretti verso la speranza di una vita migliore al nord. Qui un giovanissimo James Brown, che frequentava la base lavorando come lustrascarpe per i militari, lo vide esibirsi rimanendone ammaliato. Per Brown, Howlin' Wolf rimarrà sempre un punto di riferimento. Ma a un certo punto, Burnett, non si sa come, venne assegnata a un'unità delle trasmissioni, il 29th Signal Construction Battalion, con l'incarico di decodificare e trascrivere messaggi. Era però analfabeta e quando i superiori se ne accorsero, fu destinato a Camp Murray, vicino a Tacoma, Washington, per seguire un corso di alfabetizzazione. Qui incontrò un istruttore, a dir poco sadico. Burnett, ogni volta che commetteva un errore di scrittura o lettura, veniva ripetutamente percosso con un frustino e brutalizzato con feroci rimproveri, spesso umiliato davanti a tutti. Le settimane passavano con questo trattamento costante e nonostante la sua mole, era alto 1,91 m, e la sua scorza da uomo maturo, ebbe un grave esaurimento nervoso, collassando prima di entrare in classe. I primi rapporti medici diagnosticarono tremori incontrollabili, confusione mentale, svenimenti e vertigini frequenti, ma il calvario del povero Chester non finì qui. Infatti, poco dopo, nell'agosto del 43, fu trasferito per accertamenti presso l'ospedale psichiatrico militare di Camp Pederre, nell'Oregon, peraltro a poche miglia a sud del tristemente famoso Oregon State Hospital, quello per intenderci di qualcuno volò sul nido del cuculo. Appena ricoverato, rimase legato al letto per 2 mesi interi, subendo ogni tipo di trattamento psichiatrico, anche estremo, come l'elettroshock, psicofarmaci e assidui e ripetuti interrogatori. Ma l'ospedale, in quei giorni, oltre ai malati psichiatrici, stava ricevendo le migliaia di feriti provenienti dalle battaglie del Pacifico contro i giapponesi. Qui Chester condivise la condizione di centinaia di uomini, di ragazzi devastati dai combattimenti, mentalmente e fisicamente, dove le urla per le ferite e per i traumi facevano da sottofondo notte e giorno, dove tanti vagavano come fossero svuotati, con gli sguardi persi nel nulla. Tutto questo inferno, come lui lo descriverà, segnerà per sempre le sue canzoni e la sua grande sensibilità nello scriverle e nel raccontare le storie degli ultimi, dei peccatori e quindi di tutti. Poche settimane dopo, il 3 novembre del 1943, venne congedato con onore per disabilità. C'è da dire che fu anche fortunato, perché un afroamericano, all'epoca e nelle sue condizioni psichiche, in quel luogo, avrebbe potuto subire anche molto di peggio. Appena tornato alla vita civile, poco dopo, Howlin' Wolf spiccherà il volo, divenendo uno dei musicisti più importanti e influenti del secolo scorso. La sua esperienza militare, nel bene e nel male, lo aveva segnato per sempre, contribuendo a liberare il lupo che, nonostante tutto, non poteva rimanere rinchiuso. Il podcast di Rivista Militare vi dà appuntamento al prossimo episodio.